9 in punto, la versione di Oscar. Oscar Giannino torna a salutarvi per questa versione di Oscar che dedichiamo al caso Boffo, il direttore dimissionario dell'Avvenire, Dino Boffo, che due venerdì fa viene interessato, diciamo, da una pubblicazione da parte del giornale diretto da poche settimane da Vittorio Feltri, l'ex direttore di Libero, che ha approdato al giornale per, dichiara lui, riportarne le vendite a livelli più elevati e quindi risanarne, per così dire, le perdite. È sempre Vittorio Feltri a presentare così la sua successione a Mario Giordano, e che esordisce con una conduzione un po' maschia, per così dire, per vendere di più e per connotare meglio la sua direzione, si lancia su questo caso, cioè su questo patteggiamento avvenuto anni fa, di cui viene pubblicata la notizia con una velina di ricostruzione della vicenda relativa appunto a un patteggiamento per pressioni esercitate su una giovane da parte di Dino Boffo, che patteggia per questa vicenda con una sanzione molto bassa, 500 e pochi euro. Ma il problema è che di tutto questo nulla si sapeva, mentre invece il giornale fa esplodere questa vicenda che in una settimana di alterne successive reazioni poi sfocia nelle dimissioni di Dino Boffo da direttore dell'Avvenire. Si incendia il dibattito italiano. Tutti si chiedono se questo sia l'esordio di uno stile diverso, diciamo così, che si allarga da questo momento in poi a tutti coloro che in posizioni diverse, politiche o con una posizione delicata come la direzione del quotidiano che si rifà alla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, esprimano critiche e rilievi sugli stili di vita anche del Premier, o se invece sia una vicenda, come si sforzeranno poi di presentarla dal giornale nei giorni successivi, semplicemente di pura e semplice espressione dei propri diritti e doveri di giornalismo. E quindi il giornalismo esiste perché quando ha le notizie le deve pubblicare. Però i fatti, quando poi arriveranno alle dimissioni di Dino Boffo e a un emergere complesso di equilibri all'interno dei rapporti tra il vertice della CEI, la Conferenza Episcopale e la Segreteria di Stato Vaticana, sfumature e molto più che sfumature diverse tra CEI e Segreteria di Stato, né difendere o né non difendere Dino Boffo, tutto questo sfocerà inevitabilmente nei temi più ampi rispetto alla semplice vicenda che ho così sommariamente ricostruito e che si riassumono in alcuni interrogativi. Che cosa resta di profondo di questa ferita, di questa vicenda nei rapporti tra il governo Berlusconi e la Chiesa italiana e la Santa Sede? Che cosa resta poi nei prossimi mesi nell'informazione italiana, nell'impostare e trattare i temi delle critiche al Premier, e quali tipi di ferite più in generale tra l'informazione italiana e i temi legati alla vita della Chiesa e della fede si possono immaginare? Ecco, questa è un pochino l'impostazione della trasmissione di oggi. A fine della mia introduzione vi presento i nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto collegato con noi, e io lo ringrazio, Monsignor Domenico Mogavero, che è il vescovo di Mazara del Vallo. Buongiorno Monsignor Mogavero. Buongiorno. E che oltretutto presiede anche la Commissione Affari Giuridici della CEI. Abbiamo poi con noi collegato Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Buongiorno direttore. Buongiorno. E abbiamo Stefano Folli che ha seguito, come fa sempre con le sue note politiche, questa vicenda sul Sole 24 Ore. Buongiorno Folli. Vorrei cominciare con Sua Eccellenza Mogavero. Mi corregga se sbaglio, lei è stato tra coloro che per primo a un certo punto ha segnalato l'opportunità che Dino Boffo, di fronte all'attacco, alla pubblicazione della notizia da parte del giornale, fu tra i primi a segnalare l'opportunità che si dimettesse. Insieme però, lo ricordo ai nostri ascoltatori, lei è stato tra coloro, anche per il ruolo che esercita come Presidente della Commissione Affari Giuridici della CEI, uno tra i primi a richiamare a un certo punto a suo giudizio l'opportunità, anzi la necessità, che il Premier rispondesse alle domande che venivano rivolte da chi era critico nei suoi confronti, sul suo stile di vita. Quindi al contempo una delle voci più apertamente esplicite nell'invocare una certa coerenza e adeguatezza dei comportamenti del Premier, ma insieme il primo che ha segnalato l'opportunità che Boffo, per servizio alla Chiesa e quindi al di là del merito della vicenda, si dimettesse. Come vanno insieme questi due atteggiamenti? Cioè, che cosa resta in lei adesso di questa vicenda? Ma io preciso anzitutto che le mie dichiarazioni date alla stampa a suo tempo erano dichiarazioni personali, non intendevo in quella sede tirare in ballo la Conferenza Episcopale Italiana in ragione del mio incarico di Presidente del Consiglio per gli Affari Giuridici. Capisco che in queste situazioni poi distinguere aspetti istituzionali e aspetti personali sia piuttosto difficile, però è una precisazione perché carica di responsabilità certo. personale ciò che io ho affermato in quella circostanza. Ci ho precisato, faccio presente che io in quel contesto che già cominciava ad avvelenarsi particolarmente e quindi determinava una lacerazione profonda nelle coscienze e determinava anche tensioni a livello istituzionale, suggerì, mi appellai alla coscienza del dottor Boffo perché valutasse lui l'opportunità che facendo un passo indietro si desse un contributo di un certo spessore alla questione, che non diventasse un botta e risposta unicamente tra due testate e che soprattutto si mostrassero segnali di buona volontà nel voler cercare di ricucire quel che era possibile ricucire. Siccome fare passo indietro poteva avere anche una doppia valenza di lettura, io mi sono premurato a dire che, contrariamente a quello che in Italia si suole pensare, quel gesto non doveva essere inteso, e io lo affermai chiaramente, come una convalida o un'ammissione indiretta o implicita di responsabilità e quindi avvalorare le insinuazioni che erano state mosse attraverso l'attacco del giornale di Feltri, ma piuttosto chiarire in maniera molto esplicita che si trattava di un passo indietro che veniva fatto liberamente dal direttore di Avvenire, come poi accadde nei giorni successivi, proprio per un contributo alla verità e per mostrare non un attaccamento alla difesa personale, quanto piuttosto la tutela di interessi superiori, quali potevano essere il prestigio del giornale stesso e anche le condizioni del rapporto Chiesa-comunità politica in Italia, che in quel momento venivano tirate in ballo in maniera molto aperta e abbastanza pesantemente. E ora che cosa si attende da questo punto di vista? C'è chi osserva, oramai anche voci autorevoli, insomma ci sono stati due interventi di Vittorio Messori, che insomma, abitualmente per il ruolo che ha e per i libri che ha scritto, per gli interlocutori che ha nella Chiesa ai più alti livelli, non scrive diciamo con leggerezza su questi temi, eppure insomma oramai la trama è l'ordito di un rapporto complesso all'interno della CEI tra le diverse anime che hanno a che vedere non solo con la pastorale ma con la maniera di esercitare i propri richiami al potere politico, e tra CEI e Segreteria di Stato sono comparsi sui giornali, oramai sono diventati di dominio pubblico. E da questo punto di vista la ferita che resta innanzitutto all'interno della Chiesa italiana, dal punto di vista suo, Monsignor Mogavero, porterà un'esulcerazione a complicare ulteriormente i rapporti con la vita pubblica e con la politica, oppure no, sarà semplicemente una ferita che per il momento si lascia rimarginare col tempo? Che cosa bisogna attendersi secondo lei? Ma la ferita c'è stata, c'è e rimane e probabilmente rimarrà ancora per qualche tempo, non possiamo nasconderci la realtà delle cose, gli eventi sono stati di indubbia pesantezza e anche crudezza, questa ferita non può rimarginarsi in un breve volgere di giorni o di chiarimenti, qualora ci fossero per intero. Io credo che tutto questo impone anche una qualche riflessione al nostro interno per verificare se riusciamo ad avere una posizione che sia nello stesso tempo conforme alla natura della Chiesa e che abbia quella sufficiente libertà nei confronti del governo, dell'azione politica, che ci consenta di poter dire con chiarezza e ad alta voce qual è il nostro giudizio etico sulle persone, sui fatti, sulle normative. Il nostro criterio di valutazione è il Vangelo e quindi non possiamo accettare passivamente una normativa, ad esempio concernente il decreto sulla sicurezza con tutte le implicanze che ha, perché su quella vicenda avremmo tanti distinguo da portare avanti e li abbiamo fatti presente io personalmente più volte anche con altri colleghi vescovi, e quindi se la contrapposizione avviene non sul livello di posizioni personali o su fatti che tocchino il privato, e qui tornerebbe il discorso sulla vita del Premier, ma su fatti che incidono nel costume, nella normativa, allora la situazione attuale, senza che questo comporti una ferita al sistema concordatario, ci impone di dire liberamente e chiaramente, da cittadini come siamo, io vescovo sono cittadino italiano, non sono cittadino del Vaticano, possiamo dire liberamente qual è la nostra valutazione proprio alla luce dei criteri e dei valori che noi portiamo avanti. Belpietro, dal suo punto di vista, lei ha scritto naturalmente numerose volte man mano che la vicenda evolveva, questa è una vicenda che ha più a che vedere con una reazione di stupore perché i giornalisti di destra iniziano a utilizzare gli stessi sistemi, fanno il loro mestiere, ritengono di fare il loro mestiere, ma dico, se del caso, di fronte a delle notizie delicate, utilizzano il sistema di pubblicarle con la massima durezza possibile, mentre invece nel nostro paese ci si aspetta che questo lo faccia solo l'altra parte. È una vicenda giornalistica o una vicenda che ha a che vedere con rapporti tra Stato e Chiesa? Lei come la vede? Ma è innanzitutto una vicenda giornalistica, cioè c'è da parte di una certa stampa, in particolare di sinistra, lo stupore quando magari degli organi di informazione, dei giornali, pubblicano notizie che dispiacciono a quella parte cui loro sono vicini. Mi ricorda il caso Boffo molto il caso Sircana, quando io all'epoca direttore del giornale pubblicai notizia vera, verissima, che c'erano delle fotografie imbarazzanti per l'allora portavoce di Prodi, fui coperto da una serie di insulti e fui attaccato duramente come se avessi fatto chissà che cosa. Quelle fotografie erano contenute erano allegate agli atti giudiziari di un'indagine della Procura di Potenza, e si parlava addirittura di un tentativo di ricatto nei confronti dell'allora portavoce di Prodi, quindi una notizia sotto tutti i punti di vista, quindi qualsiasi giornale l'avrebbe pubblicata. Invece che cosa è accaduto? È accaduto che quando l'ho pubblicata io sono stato non solo insultato, ma mi è stato chiesto perché l'avessi pubblicata, anziché chiedere a Sircana perché si trovasse in una situazione che poteva metterlo in imbarazzo. È una delle curiosità di questo nostro mestiere, quindi quando anche il giornale ha trovato la storia di Boffo e della condanna e l'ha approfondita, cioè era evidente che era una notizia che qualsiasi giornale che non avesse un pregiudizio politico avrebbe messo in pagina, perché scusate, se domani mattina, dopo aver scritto degli editoriali contro la prostituzione, io fossi trovato in auto con una prostituta, secondo voi che cosa accadrebbe? Come minimo finirei sui giornali, molto probabilmente anche in prima pagina, perché la contraddizione è evidente, è una notizia la contraddizione tra il mio ruolo, le mie opinioni e ciò che io ho praticato o ciò che magari mi è capitato. Questo non significa necessariamente andare a frugare nelle camere da letto, ma un decreto penale è un decreto penale e quindi diventa un atto pubblico, non è che un giornalista è andato a frugare nella camera da letto, c'era una denuncia, c'erano degli atti giudiziari e gli atti giudiziari, siccome sono pubblici, vengono pubblicati sui giornali. Ciò detto, io subito dopo avevo invitato Monsignor Bagnasco, cioè il presidente della CEI, che pure conosco personalmente, a prendere atto di una situazione imbarazzante e a non compromettere invece dei rapporti con il governo, che sono più proficui, soprattutto dal punto di vista dei temi etici, per fare una battaglia in difesa di una persona senza dubbio stimabile per le opinioni che aveva espresso, ma che era in quel momento indifendibile da tutti i punti di vista. Folli, il giorno che si uscì la notizia delle dimissioni di Dino Boffo, lei scrisse un commento il cui titolo si stagliava rispetto a un'informazione abbastanza divisa in due campi, che il titolo era "Un giorno nero per il giornalismo, la politica e anche la Chiesa". Mi pare di poter dire che lei è di quelli che dice le conseguenze di questa vicenda resteranno abbastanza in profondità e a lungo, anche se forse sono imprevedibili, sbaglio? È così, perché io credo che la storia italiana dal dopoguerra in poi è sempre stata una storia e qui si è cercato un equilibrio tra Stato e Chiesa, tra governi laici e istituzione cattolica, e questo equilibrio è stato proficuo anche perché ha permesso poi alla politica di sviluppare la sua autonomia laica anche rispetto alla Chiesa stessa, e lo ha fatto con la Democrazia Cristiana, che è stata un grande partito cattolico ma anche un partito laico. E avere infranto questo equilibrio, oltretutto è successo da parte di un governo che, è stato ricordato anche qui, è stato più volte attento sul piano etico e non solo alle istanze della Chiesa, ma è stata vittima di questa situazione un giornale e il direttore di quel giornale, che non è mai stato ostile a questa maggioranza di governo. Quindi vuol dire che si è creato un cortocircuito molto inquietante, da cui risulta che se il direttore di un giornale avanza una critica, tra l'altro una critica molto misurata, nei confronti del Presidente del Consiglio, va incontro a una serie di vendette molto pesanti, perché nulla mi toglie dalla testa che se Dino Boffo non avesse scritto quelle risposte ai suoi lettori in cui criticava, ripeto, in maniera piuttosto sobria e prudente il Presidente del Consiglio, mai sarebbe in corso in quelle, diciamo, rivelazioni. E peraltro già pubblicate in parte da Panorama un po' di tempo fa, quindi semmai bisognerebbe discutere non tanto sulla rivelazione in se stessa quanto su quelle veline anonime che l'hanno accompagnata. E questo per quanto riguarda, diciamo, il giornalismo. Per quanto riguarda la politica, è evidente che il disastro è stato grande proprio perché si è compromesso quell'equilibrio che ho detto, e che naturalmente è una ferita che non sappiamo quando e come si rimarginerà e quali conseguenze effettivamente lascerà. E poi, dicevo, anche la Chiesa è stata colpita da questa vicenda, è stata umiliata, è stata mortificata. Tra l'altro al suo interno sono emersi poi punti di vista diversi, si è capito che ci sono dei contrasti, delle lacerazioni tra le diverse anime, che spesso, quasi sempre, sono, diciamo, aperti queste divisioni, questi contrasti, ma che in questo caso sono state messe brutalmente alla luce, e in fondo le dimissioni di Boffo sono state un sacrificio anche e soprattutto forse per la Chiesa, perché uscendo di scena Boffo si è allentata la pressione e questi contrasti all'interno della stessa Chiesa hanno la possibilità di essere ricomposti. E in effetti oggi la stampa, per esempio, pubblica un editoriale ancora in prima pagina che dice: Boffo, se il killer è un amico, è di Gennaro Corusconi, e approfondisce esattamente quest'ultimo tema toccato da Stefano Folli, cioè l'articolazione interna, anzi insomma anche le divergenze di opinioni emerse tra Chiesa Cattolica Italiana, diverse anime della CEI, segreteria di Stato. Eccoci, Oscar Giannino torna dallo studio. Stiamo occupandoci del caso di Dino Boffo, di quali conseguenze le dimissioni del direttore dell'Avvenire, create dalla sua vicenda giudiziaria, pubblicata, resa nota dopo anni, in cui aleggiava in alcune redazioni, ma non era mai diventato un tema caldo, quali conseguenze eserciterà nei rapporti tra governo, Chiesa italiana, tra diverse anime della Chiesa italiana, nei suoi rapporti anche con la Santa Sede, e che cosa questo ci fa intendere di come si eserciterà da parte dei giornali più vicini al Presidente del Consiglio l'informazione dopo anni in cui invece eravamo abituati al fatto che era, per esempio, Repubblica, non a caso, alla testa di un'interpretazione più tosta di come si fa giornalismo, di come si esercita la critica, di come si sollevano vicende quando diventano vicende che hanno a che vedere con fascicoli giudiziari. E con noi collegato Massimo Giannini, il vice direttore di Repubblica. Buongiorno Giannini. Buongiorno. E la mia domanda è: voi siete stati il giornale che ha usato i toni più decisi da un certo punto di vista. Il titolo era "Il delitto è compiuto" all'indomani delle dimissioni di Dino Boffo. E dal suo punto di vista, a che cosa prelude questa vicenda? A un ulteriore incanagliamento, se dovessi usare i termini che leggo su Repubblica, dei giornali del Presidente del Consiglio nei vostri confronti? O è una vicenda giornalistica e basta? Ma io non credo proprio che si possa parlare di una vicenda giornalistica. Su questo mi dispiace, ma la vedo in maniera radicalmente diversa da Maurizio Belpietro, col quale ci siamo già confrontati pubblicamente su questo aspetto. Come si fa a considerare giornalistica una vicenda nella quale, come secondo me giustamente ha ricordato invece Stefano Folli, il motore che spinge i giornali del Presidente del Consiglio ad un attacco feroce e a freddo nei confronti del direttore di Avvenire è solo ed esclusivamente il fatto che questo giornale si era permesso di sollevare alcune critiche nei confronti della condotta morale del Presidente del Consiglio e di alcune decisioni prese sul fronte legislativo, per esempio a proposito dell'immigrazione da parte del governo. Peraltro, a conferma di questo carattere tutto politico dell'attacco attraverso i media, c'è anche il fatto che anche il nostro direttore Ezio Mauro era stato sottoposto nelle stesse ore, negli stessi giorni, allo stesso tipo, tra virgolette, di trattamento dal giornale di Feltri per una vicenda che atteneva alla compravendita di un appartamento. Insomma, è evidente che tutti coloro che in questa fase, per una ragione o per l'altra, su un fronte o su un altro, giornalistico o politico, si prendono la briga di contestare determinati comportamenti del Presidente del Consiglio, finiscono sotto il maglio dei suoi giornali. E quindi da questo punto di vista io credo che la misura di questa battaglia sia tutta ed esclusivamente politica. Poi avviene attraverso gli strumenti che la lotta politica e il conflitto di interessi mette a disposizione del Presidente del Consiglio, cioè attraverso i suoi giornali, ma che il motore di tutto sia la politica io credo che non ci siano dubbi. A conferma di questo, di nuovo in dissenso rispetto a Belpietro e con specifico riferimento alla vicenda di Boffo, vorrei ricordare che il giornale rilancia la vicenda della condanna dello stesso Boffo per molestie telefoniche dopo che quella stessa notizia era già stata data a suo tempo da Panorama, quindi di per sé quella sarebbe una non notizia, però che cosa fa di più? La condisce con una nota informativa di sedicente ed incerta provenienza, non si capisce creata da chi e messa in giro da chi, nella quale si danno giudizi molto pesanti sulla persona di Boffo, omosessuale, pericoloso, già attenzionato dalla polizia, eccetera, dicendo e scrivendo falsamente che quella è documentazione acclusa al fascicolo giudiziario. Non è così, quindi questo dimostra ancora una volta quanto sia stato strumentale, di qui il giudizio che noi abbiamo dato del delitto perfetto o la character assassination di quella vicenda, che ripeto conferma e secondo me rafforza ancora di più la sensazione che a questo punto non ci sia più soltanto un problema di condurre una battaglia di verità rispetto a quello che il Presidente del Consiglio ci ha finora raccontato a proposito di tutte le vicende private pubbliche che lo riguardano, dalle veline a Noemi, ai festini a Palazzo Grazioli, a Villa Certosa, ma c'è anche un problema di libertà, una battaglia di libertà di stampa, nel senso che occorre continuare a difendere il diritto dei giornali ad informare e il diritto dei cittadini ad essere informati, perché se questo è il tipo di scontro che si profila tra il capo del governo e i giornali che per una ragione o per un'altra non la vedono come lui, voglio ricordare che noi siamo stati denunciati solo per aver formulato delle domande, allora credo che il tema della libertà di stampa e del diritto di informare e di essere informati non possa più essere sottaciuto. Io devo fare una domanda a Belpietro, perché devo a mia volta sottoporgli un problema. Effettivamente, in che cosa sia consistita questa nota di accompagno che interpretava la notizia, cioè l'esistenza presso il tribunale di Terni di questo decreto penale di patteggiamento per reati di molestie telefoniche nei confronti di questa giovane ragazza dell'epoca, che cosa fosse davvero quella nota che riportava quel linguaggio del soggetto attenzionato, da dove venisse, chi l'avesse inviata ai vescovi, perché era stata inviata innanzitutto a tutti i vescovi italiani relativa a Dino Boffo, poi ancora, l'esistenza di fascicoli, di cui ha parlato proprio il suo giornale in questi ultimi giorni, che vengono aperti e chiusi in uffici di indagini italiani. Che cosa c'è di non detto ancora dietro questa vicenda, secondo lei, Belpietro? Ma innanzitutto Giannini dice che era una non notizia. Siccome io fui il direttore che pubblicò a Panorama quella notizia, mesi fa, ma purtroppo io non sapevo quali fossero le ragioni del decreto di condanna di Dino Boffo, e quindi se il mio giornalista si limitò a raccontare che la notizia girava negli ambienti della chiesa tra i vescovi, ma senza aggiungere altro, perché non lo sapevamo. Dice, ma questa notizia è stata accompagnata da una informativa che non era allegata agli atti giudiziari. Quindi, dice Giannini, un falso, probabilmente lascia intendere anche che vi fosse della calunnia. Ora, se così fosse, non si capisce come mai Dino Boffo, essendo in grado di difendersi, non abbia detto: guardate, quello che è stato scritto dal giornale, queste voci che riguardano la mia presunta omosessualità, il fatto che io abbia fatto queste molestie in danno di una ragazza perché mi contendevo il fidanzato di questa, beh, bastava insomma che lui si spiegasse e la vicenda si sarebbe risolta. Invece lui non si è spiegato, e questo quindi ha lasciato spazio a qualsiasi immaginazione, a qualsiasi interpretazione. La vicenda, come spesso capita, se fosse stata chiarita, molto probabilmente si sarebbe risolta. Invece così non è stato, si vede che Boffo aveva le sue buone ragioni per non chiarire questa faccenda. Ora, il fascicolo, come ho raccontato, esisteva anche alla questura di Milano, e riconfermo che esiste, credo anzi che oggi sarà quantomeno mostrato questo fascicolo, visto che il questore di Milano ha chiamato il giornalista dicendo: sì, il fascicolo esiste, ma non contiene nulla di ciò che voi pensate. Sarà così. Curioso che dopo aver diffuso una nota in cui sosteneva che era del tutto destituita di fondamento l'esistenza di un fascicolo, oggi la questura di Milano ammetta che il fascicolo esiste, ma dica che non c'è niente di interessante all'interno di questo fascicolo. Allora, ritornando alla questione, la questione è una questione giornalistica, nel senso che ovvio che parte da un aspetto politico, ma sono i giornali che raccontano questa faccenda, non c'è nessun disegno del Premier o di che altro. Io stesso ho pubblicato la notizia di Ezio Mauro, ma perché una notizia, quando c'è una contraddizione evidente tra chi sostiene una certa tesi e il suo comportamento? Se uno fa il direttore di Repubblica e ci invita tutti i giorni a rispettare le regole e critica gli altri che non rispettano le regole, e poi evade le tasse e non paga 850 milioni, non li dichiara quando acquista una casa, è una notizia. Credo che questo lo capiscano anche i bambini. Se poi si fa finta di dire: ah, ma no, ma noi siamo intoccabili e solo gli altri sono toccabili, cioè quindi i giornalisti possono sostenere ciò che vogliono, ma sono intoccabili, se è questo che si vuole, beh, allora questo è abbastanza curioso. Si vuole una sorta di impunità anche critica, nessuno si può permettere di criticare i giornalisti per i propri comportamenti. Beh, io lo ritengo ridicolo. Folli, ammettiamo che il principio evangelico, cioè chi è senza peccato scagli la prima pietra, d'ora in poi si debba applicare con un certo rigore. Le faccio una domanda, da giornalista, nel senso che perché non dovremmo immaginare a quel punto che chiunque di noi abbia preso almeno una condanna per diffamazione, a quel punto deve cessare di scrivere di queste materie, perché se è un diffamatore almeno per una sentenza è un diffamatore conclamato. Voglio dire, non è un paradossale un pochino imboccare questa via della coerenza adamantina per tutti e per tutto su qualunque aspetto della propria vita? E sto parlando di personaggi pubblici. È davvero corretto interpretare allo stesso ruolo chi esercita una funzione come quella del Presidente del Consiglio e quella di un direttore di giornale, o c'è una distinzione? Lei che pensa di questa era della coerenza adamantina per tutti? Oh, c'è una distinzione evidentemente, nel senso che c'è una forma di asimmetria. I giornali, ma non giornali diciamo che abbiano un pregiudizio ostile nei confronti del Presidente del Consiglio, è un pregiudizio favorevole nei confronti di una forza di opposizione, ma i giornali nel loro complesso, e stiamo parlando appunto tra l'altro di Avvenire, che non aveva certo pregiudizi ostili verso questa maggioranza centrodestra, i giornali nel loro complesso hanno, io direi, non soltanto il diritto ma anche il dovere di esaminare, analizzare, criticare i comportamenti non del Presidente del Consiglio, ma di chi governa in generale, anzi direi di più, di tutti coloro che ricoprono ruoli istituzionali. Questo è, diciamo, un po' l'ABC, diciamo, del giornalismo che nei confronti del potere deve assumere un atteggiamento critico, un atteggiamento di distacco. Questo determina quindi una forma di asimmetria, nel senso che il potere politico sbaglia profondamente se si difende attraverso controattacchi, controffensivi, spedizioni punitive, querele, tutte cose che effettivamente avvengono, credo, soltanto da noi, perché non mi sembra che ci siano cose analoghe o negli Stati Uniti o negli altri paesi di maggiore democrazia occidentale. Quindi questa è una china molto pericolosa perché configura, che lo si voglia o no, perché può darsi che non sia nemmeno questa sempre l'intenzione, ma che lo si voglia o no, configura una forma di intimidazione, mentre invece la libertà di stampa deve godere di un ampio spazio di manovra, e il potere politico o istituzionale che viene criticato deve rispondere in termini politici, non può rispondere, secondo me, nelle aule del tribunale, tantomeno utilizzando forme che appaiono appunto intimidatorie. Questo è molto rischioso, configura una china parecchio pericolosa, perché inevitabilmente è una forma di imbarbarimento che danneggia profondamente il giornalismo, la qualità giornalistica, e ripeto, il salto nella politica è immediato. È immediato e con le conseguenze che abbiamo descritto stamattina. Eccoci tornati in studio, iniziamo dalle opinioni di alcuni ascoltatori su questa vicenda e poi le giriamo a Monsignor Mogavero. Iniziamo con Dario da Milano. Buongiorno. Prego. Non ho ben capito, perché non ho ascoltato la parte iniziale, se Folli pensa che questa vicenda sia frutto di un'inchiesta giornalistica o di un disegno politico. Bene, voglio dire questo, se Folli pensa che sia solo frutto di un'inchiesta giornalistica, secondo me è un attaccarsi sugli specchi. Mi spiego meglio, una cosa è certa, sono stati intaccati in maniera anche pesante quelli che sono dei rapporti delicati tra governo italiano e Stato estero della Chiesa. Ovviamente nessun giornalista italiano, voglio sperare, è uno stupido, Feltri ha maggior ragione, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, mai fatto scoppiare un bobone di tale portata, credo, se non fosse stato, tra virgolette, imbeccato, suggerito o se non avesse avuto uno scopo. Fatto sta comunque che Boffo si dimette per una parvenza di immagine da parte della Chiesa. Ma la cosa che mi fa sorridere è, facciamo finta, ammesso e non concesso che le dimissioni di Boffo siano state non giuste, non fare messe troppo lunghe, Dario, arriviamo al punto. Ecco. Il punto è questo, proviamo a far dimettere tutti quei politici e deputati italiani che hanno avuto già una vicenda giudiziaria simile a quella di Boffo. Dovremmo rifare di nuovo le elezioni? Addirittura, no, questo io non lo so se dovremmo addirittura rifare le elezioni, però insomma ho capito il suo punto. A Dario devo ricordare che Avvenire è il giornale della CEI, quindi della Chiesa italiana. Una delle particolarità di questa vicenda, che poi ha iniziato a far parlare delle divisioni all'interno del campo della Chiesa, è stata l'intervista resa invece dal direttore dell'Osservatore Romano, visto che lei chiamava in causa i rapporti tra un governo e la Santa Sede, come tra potenze diverse, per così dire, perché proprio Viane, il direttore dell'Osservatore Romano, è stato tra i primi a esprimere critiche, per le critiche che l'Avvenire aveva rivolto, definite incaute, nei confronti del Presidente del Consiglio. Quindi l'articolazione della dialettica interna tra le due rive del Tevere, ma anche all'interno della Chiesa italiana, cioè tra la Chiesa italiana e invece la riva che sta oltre Tevere, è diventata evidente in questa vicenda. Abbiamo poi Giorgio da Pisa. Prego Giorgio. Sì, buongiorno. Una cosa semplice. A un certo punto chi ha qualche scheletrino nell'armadio non può scherzare col fuoco, che poi prima o poi va a finire che si brucia, capito? E Boffo, se ha voluto fare quell'azione nei confronti di Berlusconi, secondo me aveva un bel tornaconto, pur sapendo che lui aveva, diciamo, questo scheletrino nell'armadio. perciò è una cosa politica che viene da sinistra e che va, diciamo, vuole intaccare il potere di Berlusconi della destra. Grazie, Giorgio. Graziella da Reggio Emilia. Sì, buongiorno. Buongiorno, direttore. Senta, niente, io avevo saputo nei giorni precedenti che scoppiasse il caso Boffo che il giornale aveva pubblicato qualche cosa su De Benedetti, ricordando una sua condanna nel crack dell'Ambrosiano per, mi pare, 6 anni per bancarotta fraudolenta. Dopo, quando esplose il caso Boffo, io ho inteso questi fatti come una ricerca da parte del giornale, del direttore Feltri, diciamo degli scheletri nell'armadio di queste persone che si erano proposte come moralizzatrici della vita pubblica, insomma, avevano fatto del moralismo in seguito alle note vicende che su Berlusconi e l'escort, ecco. Che... E questo mi pare che sia un legittimo sospetto, anche se naturalmente c'è chi sostiene, Feltri per primo, ma anche Maurizio Belpietro, molti giornalisti, che questa è una notizia, la notizia va pubblicata. Ringrazio anche Graziella. Monsignor Mogavero, ci aiuti un secondo a capire, le critiche squadernate per i rapporti interni, le incomprensioni, i diversi giudizi tra le diverse anime della CEI e la sponda invece della Segreteria di Stato sono state rilevanti, notevoli, autorevoli, anche espresse da molti osservatori che portano un'attenzione storica e danno giudizi notoriamente equilibrati per la vicenda della Chiesa italiana. Quindi è un fatto, per così dire. Le chiederei un'opinione su questo. C'è chi dice che, per esempio, all'interno della CEI per troppi anni avete cullato in qualche misura una concentrazione di potere proprio mediatica eccessiva, mettendo insieme l'Avvenire, tutte le radio, il Toniolo e così via, che adesso si tratta di smontarla, di diventare più equilibrati al vostro interno, meno concentrati in un progetto, quello attribuito poi al precedente presidente molto importante, Monsignor Ruini della CEI, e che invece forse va un pochino più equilibrato e meno potente nella sua punta espressiva della comunicazione. Cosa c'è di vero secondo lei in tutti questi rilievi? Monsignor Mogavero? Non è più con noi Monsignor Mogavero e quindi da questo punto di vista la domanda resterà senza risposta da parte sua. Io giro però a Belpietro. Belpietro, chi dice che da questo punto di vista Berlusconi è stato un po' mal servito, perché la reazione del mondo cattolico italiano, soprattutto nella CEI, non potrà che riequilibrare ancora più a sinistra dopo le dimissioni e l'umiliazione quindi subita con le dimissioni di Boffo. Lei che dice? Ma innanzitutto credo che in realtà la Chiesa sia più attenta a questioni di sostanza, come per esempio il testamento biologico, quindi sulla bioetica è sensibile, non certo sulle vicende che riguardano private, per la verità, che riguardano il direttore. Anzi, mi sembra che persino l'incontro che vi è stato ieri tra Gianni Letta e il Papa vada in questo senso. La Chiesa credo che abbia fretta di avviare questa vicenda, non ha nessun interesse a tenere alta la polemica, tutt'altro. Credo persino che la situazione sia stata gestita male, perché è evidente che sin dall'inizio forse conveniva alla Chiesa, di fronte a una condanna, approfondire il tema e dopodiché chiedere magari come credo poi sia avvenuto, chiedere a Boffo di fare un passo indietro, senza nulla togliere i meriti di Boffo, per esempio sulla campagna che fece sulla legge 40, ma è evidente che c'era una contraddizione tra il suo ruolo e ciò che era venuto a galla. Aggiungo una cosa, sì, certo, capisco benissimo che ci sono inchieste giornalistiche e così via, ma anche prima sentivo Graziella che parlava di De Benedetti. A parte che la notizia di De Benedetti è stata pubblicata da Libero, non dal giornale. Perché è stata pubblicata? Semplicemente perché Berlusconi, facendo della polemica con Repubblica, ha detto che il suo direttore aveva evaso le tasse e che il suo editore era un editore svizzero. De Benedetti gli ha risposto dicendo: sono andato in Svizzera perché ricordo questo paese, sono vicino a questo paese perché diede ospitalità alla mia famiglia quando vi furono le leggi razziali. Ora la ragione in realtà sembra un po' meno ideale, perché De Benedetti può andare in Svizzera quando, inseguito da una condanna in primo grado per il crack dell'Ambrosiano, era inseguito anche da una richiesta di risarcimento dei curatori del crack, curatori fallimentari, i quali pretendevano 150 miliardi di lire. gli pignorarono, arrivarono al punto di pignorare anche i mobili dell'ingegner De Benedetti, e l'ingegner De Benedetti trasferì tutto quanto all'estero. Questa fu la ragione, e l'abbiamo ricostruita e raccontata, e non c'era nessuna ragione ideale in quel momento, tanto è vero che il trasferimento avviene in quel periodo, e ci fu anche una polemica perché i curatori fallimentari a casa riuscirono a pignorarli neppure un miliardo, ma se non sbaglio 790 milioni dell'epoca, in sostanza. Questa è quindi la anche lì è una storia giornalistica. Giannini, lei si aspetta che la Chiesa italiana farà un rapidi punti di sutura e passerà oltre, o invece no? Allora, però intanto mi faccia dire due cose. Una sul direttore Ezio, ma non devo fare l'avvocato direttore, ma Ezio Mauro ha dimostrato ampiamente che di evasione fiscale non si è affatto trattato. In secondo luogo, la vicenda dell'ingegnere, mi sembra che i conti non tornino, anche dal punto di vista delle date che Belpietro ricostruisce. Comunque, al di là di questo, per quanto riguarda il problema dei rapporti tra il governo e la Chiesa, io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Stefano Folli prima, e cioè mi sembra abbastanza chiaro che questa è una ferita autentica, forse la prima vera ferita che si produce sul tessuto dei rapporti tra maggioranza di centrodestra e Chiesa italiana. Si tratta solo di capire quanto sarà estesa e profonda la ferita, e se e quanto tempo ci vorrà per rimarginarla. Ora, è chiaro che nell'incontro del Santo Padre con Gianni Letta ieri i toni non potevano che essere assolutamente concilianti e persino affettuosi, come ha detto lo stesso Gianni Letta, ma questo secondo me non conta, perché la ferita c'è stata, lo dicono, lo scrivono i più autorevoli osservatori delle vicende di Chiesa. Lei citava prima Messori, quindi da questo punto di vista, oltre a lui, Melloni, insomma tutti sono concordi sul fatto che si sia trattato di una vera e propria lacerazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. La devo interrompere, perché ahimè oggi dobbiamo cedere prima la linea, e mi scuso anche con Stefano Folli, mi scuso con Sua Eccellenza Mogavero, che è un po' sparito ma era in macchina, quindi lo sapevamo. Io credo che avrà una code lunghe questa vicenda. Credo che siamo entrati in una fase, poi mi sbaglierò, ma di qui a ottobre-novembre, man mano che si avvicina la pronuncia della Corte su Lodolfano, molto calda, molto, molto, molto calda. Ne vedremo, temo, delle belle. Io sono per un giornalismo un po' più misurato, da una parte verso il governo e dall'altra verso istituzioni come la Chiesa. Ma qui concludo e passo la linea al giornale radio, dopo aver salutato, come sempre, la redazione Sara Sprefico e Alessandro Marco Tulli. Colpa mia oggi, posso ringraziare in regia, ma per evitare di sbagliare un numero lo ringrazio e basta. La linea al giornale radio.